Ha compiuto la Radio Roma. Sì. Sei connesso. Sei connesso. Connesso. Sei connesso. Sei connesso. Fratello, sei connesso. Guarda la radio. Sei connesso. Fratello, c'è. Nastra Radio Roma.org. Still is not free. 100 years later. Oggi, amici miei, vi dico, anche se dobbiamo affrontare le difficoltà di oggi e di domani, io continuo ad avere un sogno, e un sogno che ha radici profonde nel sogno americano. Ho un sogno che un giorno questa nazione sorgerà e vivrà il significato vero del suo credo. Noi riteniamo questa verità evidente di per sé, che tutti gli uomini sono creati uguali. The Negro is still languished in the corners of American society. I have a dream. Ho un sogno che un giorno sulle rosse montagne della Georgia i figli degli ex schiavi ed i figli degli ex padroni di schiavi potranno sedersi insieme alla tavola della fraternità. Ho un sogno che un giorno perfino lo stato del Mississippi, dove si patisce il caldo afoso dell'ingiustizia, il caldo afoso dell'oppressione, si trasformerà in un'oasi di libertà e di giustizia. Ho un sogno che i miei 4 bambini un giorno vivranno in una nazione in cui non saranno giudicati per il colore della pelle, ma per l'essenza della loro personalità. Oggi ho un sogno. Ho un sogno che un giorno, laggiù nell'Alabama, dove i razzisti sono più che mai accaniti, dove il governatore non parla d'altro che di potere delle leggi federali, un giorno, proprio là, nell'Alabama, i bambini neri e le bambine nere potranno prendere per mano i bambini bianchi e le bambine bianche, come fratelli e sorelle. Oggi ho un sogno. Ho un sogno che un giorno ogni valle sarà innalzata, ogni monte e ogni collina saranno abbassati, i luoghi scoscesi diventeranno piani e i luoghi tortuosi diventeranno diritti e la gloria del Signore sarà rivelata, tutte le creature la vedranno insieme. Questa è la nostra speranza, questa è la fede che porterò con me tornando nel sud. Con questa fede potremmo cavare dalla montagna della disperazione una pietra di speranza. Con questa fede potremmo trasformare lo stridente discordanze della nostra nazione in una bellissima sinfonia di fraternità. Con questa fede potremo lavorare insieme, pregare insieme, lottare insieme, andare in prigione insieme, schierarci insieme per la libertà, sapendo che un giorno saremo liberi. Quel giorno verrà quando tutti i figli di Dio potranno cantare con un significato nuovo. Patria mia, è di te, dolce terra di libertà, è di te che io canto. Terra dove sono morti i miei padri, terra dell'orgoglio dei pellegrini, da ogni vetta riecheggi libertà. E se l'America vuole essere una grande nazione, bisogna che questo diventi vero. E dunque, che la libertà riecheggi della straordinaria collina della New Hampshire, che la libertà riecheggi dalle possenti montagne di New York, che la libertà riecheggi dagli elevati allegri della Pennsylvania, che la libertà riecheggi delle innevate montagne rocciose del Colorado, che la libertà riecheggi dai pendii sinuosi della California, ma non soltanto. Che la libertà riecheggi dalla Lookout Mountain del Tennessee, che la libertà riecheggi da ogni collina e da ogni formicaio, dal Mississippi, da ogni vetta che riecheggi la libertà. Lookout Mountain of Tennessee. Let freedom ring from every hill and molehill of Mississippi, from every mountainside. Let freedom ring and when this happens. E quando questa avverrà, quando faremo riecheggiare la libertà, quando la lasceremo riecheggiare da ogni villaggio, da ogni paese, da ogni stato, da ogni città, saremo riusciti ad avvicinare quel giorno in cui tutti i figli di Dio, neri e bianchi, ebrei e gentili, protestanti e cattolici, potranno prendersi per mano e cantare le parole dell'antico inno. Liberi finalmente, grazie a Dio Onnipotente, siamo liberi finalmente. Free at last! Thank God Almighty! We are free at last! Uno, due, tre, quattro, via! Thank you. amici e amiche in notevole ritardo, saluto tutti quanti. Qui è Mister Gasperino dai microfoni dell'Altra Radio Roma che vi sta facendo viaggiare all'interno di questo podcast, dove potete sicuramente apprezzare quello che sono le convinzioni del DJ di turno di trasmettervi non solo musica, ma attraverso la musica un messaggio. Abbiamo ascoltato all'inizio proprio di questo lavoro un artista che risponde al nome di Adam Castillo e risiede nella Polinesia francese. Ci ha presentato un ambient elettronico e la traccia che ci siamo ascoltati sotto la voce di Martin Luther King mentre recitava, mentre pronunciava il famoso discorso I Have a Dream, abbiamo ascoltato appunto Tick Scream. L'intento di questo podcast è quello di camminare attraverso l'etnia che ha caratterizzato l'uomo nelle diverse sfaccettature, nei diversi punti, diversi angoli di questo mondo. Queste diversità che hanno permesso un'integrazione, solo attraverso questa integrazione abbiamo potuto sviluppare maggiormente quelle che sono state le potenzialità dell'essere umano, però trasformarle a tal punto che oggi hanno portato a un azzeramento di quello che è le regole che rispettano questo universo e nella fattispecie la nostra casa, ossia il mondo. Il motivo per cui voglio fare questo podcast è quello di raccontarvi le diverse etnie, le diversità che caratterizzano i diversi popoli, e lo voglio fare attraverso la musica o parole utilizzate di personaggi abbastanza famosi come appunto Martin Luther King. L'artista che abbiamo sentito successivamente è stato Pasqualino Ubaldini, che è uscito con un nuovissimo lavoro, e la traccia che ci siamo ascoltati è appunto Pietre. Ora ci immergiamo direttamente verso la Federazione Russa per ascoltare un gruppo che ci presenta un genere musicale etnico acustico veramente notevole che risponde al nome di Sandal. Il brano si intitola Inside Me. Voi siete su un'altra Radio Roma. Ooh. Сеяли светлых помыслов внутри меня звезды. Внутри меня солнце, дарующее бессмертие. Внутри меня солнце. Da Washington ci regala questa traccia dal titolo Enhancy. 1, 2, 3, 4, via! Story told, my life unfolds. You were there when I took that plane to fly. Above the desert, tears welled up in my eyes. Would I find love and happiness by telling all my friends goodbye? The song about the hat that lay wherever was his home, it didn't sound like it was true. That man was hopelessly alone. Coming home, where spiders roam. Young crew of Bontecou, whatever were your names, I read your stories while the rain pounded the panes. A story read, my life's ahead. Sail a ship across the sea, that certainly appealed to me. And when I saw those mountains rise up from the plain, I knew at once where it was said that Frodo crossed the riverbed. For all the world is home to everyone who can invent their roots as they would find their story shooting wine. Coming home, I want all my friends to be there. Coming home, I want everyone to see them. Coming home is wherever you will listen to the story of a world where stories run. That is the story of a life where spiders run. Yourself. You were the one that called the king and made him see the suffering. For our world will only truly be our home if we let all their stories free. Anansi said to me, coming home. Abbiamo già avuto modo di conoscerli, vengono da Bari e ci presentano un rock che definirei lirico, ma non quel lirico pavarottiano, ma un lirico rock veramente da gustare e da prestargli la giusta attenzione. Quest'oggi ci presentano un nuovo brano che si intitola Olio 31, sono gli Nova Etere e prestategli attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione, attenzione. We'll be right back. Radio Roma, un'altra Radio Roma, olè. Un'altra Radio Ramo, un'altra Rodia. Un'altra Rodia. Un'altra Radio Ramo. Mister Brontolo, Mister Campo, Mister Gasperino, Mister Coco, solo musica Creative Commons. Radio Ramo. Tra Radio Roma. Tra Radio Ramo. Buongiorno, un pensatore indiano fece questa domanda ai suoi discepoli. Perché le persone gridano quando sono arrabbiate? Gridano perché hanno perso la calma, rispose uno di loro. Ma perché gridare se la persona sta al tuo lato? Disse nuovamente il pensatore. Gridiamo perché desideriamo che l'altra persona ci ascolti, replicò un altro discepolo. E il maestro tornò a domandare: allora non è possibile parlargli a voce bassa? Molte altre risposte furono date, ma nessuno convinse il pensatore. Allora il maestro esclamò: Even in ordinary affairs, we know that people do not know who. Voi sapete perché si grida contro un'altra persona quando si è arrabbiati? Il fatto è che quando due persone sono arrabbiate, i loro cuori si allontanano molto. Per coprire questa distanza bisogna gridare per potersi ascoltare. Quanto più arrabbiati sono, tanto più forte dovranno gridare per sentirsi l'uno con l'altro. D'altra parte, che succede quando due persone sono innamorate? Loro non gridano, ma parlano soavemente. E perché? Perché i loro cuori sono molto vicini. La distanza tra loro è piccola. E quando l'amore è più intenso, non è più necessario nemmeno sussurrare. Basta guardarsi. I loro cuori si intendono. Questo accade quando due persone che si amano si avvicinano. Such testimony is to be found in the experiences of an unfortunate. Infine il pensatore concluse: quando voi discuterete, non lasciate che i vostri cuori si allontanino. Non dite parole che li possano distanziare di più, perché arriverà un giorno che la distanza sarà troppa. Gandhi. The Jungle Song. The Jungle Song. The Jungle Song. Uno, due, tre, quattro, via. It's a jungle out here, since I crashed down way back when. Only animals are near, and a pygmy now and then. Lordy, where are some real men? Dressed in my best furs and no more. Orchids everywhere I turn. As the steam of vapor flows more deep inside, I sizzle and burn with jungle fever. Warm as tropical sky, yes, jungle fever for some primitive guy. Watching chimpanzees and mandrills as they swing from tree to ground, busy as a set of handrails. I too want to monkey around. This jungle fever makes me boil with romance. That jungle fever. Stop those managing plans. I hear the jungle call, the mating calls of all. Just like the leopard, the mighty monkey, the mighty python, and hummingbird, the raging rhino, and the hyena. Every going and coming bird. But hold the line, hold the line. I hear every mating call. Per dover di cronaca all'artista che abbiamo sentito sotto la voce di Gandhi e sotto la voce recitata indegna mia, era Camarius, che ci propone un genere new age anche abbastanza riflessivo, quasi a livello dei Karma a questi livelli qui. Invece l'artista che abbiamo sentito successivamente era un duo, era Paul Cates and Michelle Colby, che da Tales Off abbiamo ascoltato The Jungle Song. Jungle Song. Jungle Song. Mentre ora ci andiamo a sentire dritti dritti un bel gruppetto dal Brasile, ci prepara e ci presenta un brano che si intitola Boomerang, e loro sono i Regra 4. 1, 2, 3, 4, via! Nessa vida é que se faz, é que se paga vivo, vivo. viva sua vida com cuidado e limpe sua mente nessa dança lado a lado. Misteriosamente tudo pode mudar, misteriosamente tudo pode mudar. Então, o que te move, te envolve, te faz pensar, o que dissolve, apaga, deixa pra lá. O que te move, te envolve, te faz pensar, o que dissolve, apaga, deixa pra lá. É, é, é. A vida é um bumerangue, bumerangue, bumerangue. Por outro lado, a vida é um buraco, simplesmente ameaçando te exterminar. Mas quando a gente pega firme e leva numa boa, é uma gangorra em frente ao mar. Ser desistente não é coisa boa, meu amigo, se hoje perde, amanhã ganha. Um sobe e desce, a vida inteira é uma jangada louca, usando saia de pernas pro ar. Usando saia de pernas pro ar. Então, o que te move, te envolve, te faz pensar, o que dissolve, apaga, deixa pra lá. O que te move, te envolve, te faz pensar, o que dissolve, apaga, deixa pra lá. É, é, é. A vida é um bumerangue, bumerangue, bumerangue. Per la necessità di mesculanza con gli altri popoli, con le altre etnie, sono andato a pescare questo ragazzetto che viene dalla Polonia, risponde al nome di Demontiu, e ci presenta un genere veramente vivace, perlomeno particolare. Ascoltatelo, gustatelo con calma. Il brano, la traccia che ci andiamo ad ascoltare, si intitola Escape to Nepal. Nepal, Nepal, Nepal. Thank you. Vivendo in Costa Rica è l'album di Frankie Ortiz e la traccia si intitola È Sudan e voi siete su un'altra radio. Roma. 1, 2, 3, 4, via. Salió de casa ayer, iba en el tren como a las 3 y dijo: siento vida en mi ser. Aunque no haya nada ya que comer o que beber, dijo: lo tengo todo en mi haber. Sombrero de color, Biblia en inglés y un neceser, y dijo: qué alivio estoy con vos aquí. Tus promesas me sostienen, vuelve a ver. Me has flechado en el corazón. Confiada voy a estar aquí. Las promesas del Señor son en el sí. Gente subir, de gente bajar, lágrimas secar, y dijo: seguro no conocerán. Mirada fugaz y un ligero impas, agua para tomar, y dijo: tengo algo para dar. Boleto de avión, boleto de tren, pedazo de pan, y dijo: qué bueno que me envió a Sudán. Tus promesas me sostienen, vuelve a ver. Me has flechado en el corazón. Confiada voy a estar aquí con. Las promesas del Señor son en el sí. Flechado en el corazón. Confiada voy a estar aquí con vos. Las promesas del Señor son en el sí. Las promesas del Señor son en el sí. Vengono da Pavone del Mella, sono italiani e ci presentano un rock demenziale. Il loro gruppo si chiama Pellagra e il brano E se lo merita. Chi? Loro? Beh, forse anche loro se lo meritano, però noi ci andiamo ad ascoltare E se lo merita. Yeah. basterebbe pensare a questa società come ad una persona fisica e dare un nome e un cognome a questa società. La chiamerei Paola Finbrau. Vederla uscire dal bar e salutarla dopo averle cagato in macchina. E se lo merita, e se lo merita, e se lo merita una che prende per il culo i grandi, che prende per il culo i bassi, che prende per il culo i magri, che prende per il culo i grassi, che prende per il culo i calvi, che prende per il culo i rossi, che prende per il culo i belli, perché sono degli imbecilli per lei. Piacerebbe pensare a questa società come la miliardaria odierna che fa chilometri per fare il pedicure al suo bel cagnolin de merda. Fare una buca per terra, coprirla un po' con l'erba, mettersi un numero di DBTV e quando cade giù, perché lei cade giù, tirare fuori il cantato e cantare dammi 4,5 kg di mortazza, baby. Io non voglio né il tuo orgoglio né la tua allegria, no. Io voglio solo 4,5 kg di mortazza, baby. Che col tuo zucchero, che col tuo zucchero, la pilona non va più giù. Pensare a questa società come a una bella maturaccia, talmente stupida, talmente frivola, che chi la fa bere se la schiaccia, ma talmente bella che quando è davanti a me io riesco a dire soltanto e se lo merita, e se lo merita, e se lo merita una che prende per il culo i grandi, che prende per il culo i bassi, che prende per il culo i magri, che prende per il culo i grassi, che prende per il culo i calvi, che prende per il culo i rossi. È bella soltanto lei e ce l'ha soltanto lei. Magari dammi 4,5 kg di mortazza, baby. Io non voglio né il tuo orgoglio né la tua allegria, no. Io voglio solo 4,5 kg di mortazza, baby. Che col tuo zucchero, che col tuo zucchero, la pilona non va più giù. Con cui vado a chiudere e a salutarvi in questo podcast è un gruppo egiziano che ci presenta un progressive veramente interessante. Li ho trovati particolarmente attenti a certe sonorità proprio in questo podcast, dove abbiamo parlato di etnie, dove abbiamo parlato di fraternità, dove abbiamo parlato di solidarietà, solidarietà tra gli uomini e meno egoismo nei confronti di questo mondo. Loro ci presentano un brano che si intitola Religious Man e loro sono i Redeemers. Gasperino vi saluta. Gasperino vi saluta. E alla prossima. E alla prossima. 1, 2, 3, 4, via. squeeze.